Je vais me déplacer pour dire une fois. C'est pas vrai que j'étais déplacé et qu'il voulait pas aller. Je dois passer sur un personnel. Mais c'est toujours comme ça. Chaque fois qu'il connaît quelque chose, même tu dis, c'est un fou. Comment tu tombes sur lui? Ok, va bien, chef. Capito. Vidam, c'est tout à ce scarico. Dimmi. Ok. Carmelo. Carmelo. Non quella, penso che quella. Non ero come Tommy, lui sto facendo. Moi je voulais pas faire de temps, mais chez moi, ils sont pas prêts. Je suis bien, mais voilà. Ah bah ça ils ont rien fait, ils ont tout posé la vente, ils ont pas de dire y'a rien. Oui, ma mère, bon monsieur, mais il y a rien. Il y a un peu mon dit, quand on prend un passage, la finalité est une bénéfice. Hey, hey you! Tu vas passer, il y en a encore deux bruits qui disent, deux bruits qui a passé. E avanti! Attenta cuffetta! E beh, conditatela l'insalata con l'olio motore! Cazzo, non vediamo un cieco che era ozzo di bustino, lì ce non se ne manca accorta, lì era... Boh, non so, manco lì cosa stava pensando. Boh. Gliel'ha portato anche fino al portone, vedi un po'. Perché gli ha fatto vedere una fugliato giovono. Te lo fa, te lo fa anche assaggiare se lo vuoi. Poi dal furgone di là di l'uso gli ha miscellato con la mondezza. Io ce l'ho buttato. L'ha provato Paoletta a friggi puro me. L'ha solo provato un fiago, un boccino, tutto nel gabinetto ce l'ho buttato. Il suo è Sinaleggio che si udiva, ha fregato a Paoletta 3 anni fa. 5 litri ne l'aveva abbigliato, ladro. Anche Maria dice, se vuole c'ho anche frutta a pesca. Maria, no, non voglio nulla, gliela porto, boom, va. Si è voluta due, ma tranquilla che non l'abbiamo buttita, troppo superarsi. Te lo do io l'olio buono, te lo do io! Chi è? Chi è? Roba buona davvero lì! Mica te lo dà! Ti è, avanti che non stai uscendo! Ok, che ha detto che ci dà l'olio buono? Chi sei? Avanti! È sparito, rientrerà! Ehi, anche a Paoletta ha fregato 3 anni fa, sempre lo stesso, ogni anno si va a diluire e putti la gente, ogni anno, chi ci anda a giro su ogni anno, però cambia le zone, capito? Sì, la roba che non la c'appia io. Oi, adesso qui se ne avrà fregato un 5-6 da questa zona. Per un po' di danni non lo vedi, davvero rapido, capito? Sì, però mi aspetto quando l'ha fatto. Sembra perché l'olio c'è di quel colore, no? C'è l'olio d'oliva, che rimane giallo. Perché l'olio di semi rimane un po' trasparente, quando l'ha fatto, aspetta. Ma è puzzinoso, ce l'ho buttato, te lo sto dicendo. Faceva un odoraccio. Ma brutto mi pucci, vai, che non ne mangio di mondezza. A quel prezzo che l'ha pagata, andava al mulino e glielo davano al mulino, olio d'oliva, dell'anno prima, non di chissà, dell'anno prima, come me l'ha data a me mula, sono andata al mulino, e mi ha detto se lo volevo di quest'anno o dell'anno scorso, se lo volevo dell'anno scorso adesso non ricordo quanto me l'aveva lasciato. Oh. E l'avevo preso, era buono, ma non era uso da riga, non avevo preso. Poi ti ho mandato la foto. Adesso guardo, io l'ho preso da Mura, avevo chiesto. O se no l'ho preso anche lì all'orificio secchi, e l'olio d'oliva, c'ha quello di quest'anno e quello dell'anno scorso, te lo dico, se glielo chiedi, lo dici. E ti compra il suo buono. Eia. Vabbè. Grazie, come la fuzzi? Ne ha attaccato uno di stimi, bastardo. Ehi, ma la ciappa a lui io, e mi devo la ciappia io. No. Vai bene, si vede che è cialugiano, mica lo sudare per di questi, ma buffoendi, sì. Vabbè che il bidoncino adesso non lo so che colore è, trasparente. Per carità, uiaia. Porcherità. Quanto gli ha fatto pagare? Cos'è il bidoncino da 5 litri qui? 25 euro. A 5 euro lui, su cazzo, andavi da dura di fronte all'Eurospiglia al mulino proprio. Guardavi se era aperto, ti avvicinavi dentro e te lo davano lì l'olio d'oliva. E neanche a 5 euro, se poi ti dava quello dell'anno scorso, sempre di lì, e te lo dà di meno. Lo so, grazie, però me l'ha fottita. Sì, ma l'hai provata a provare. Guarda, questo qua lui l'avrà comprato all'Eurospin che costa 5-6 euro, capito? Per fregare la gente. E se lo vende a 25 euro. E io li ho comprato, visto che mi ha fatto ora cupare oggi di semini e rumiscia là con frigo, ma allunga un pemmi e così rovina l'olio e poi va ce lo vende tanto rumato in giù la gatta sempre lo spaccia per olio d'oliva, capito? Vabbè, ormai in casa da niente. Quella butti di un po' di niente, no, in questa zona è no, pure al sacro cuore, al sacro cuore in basso, lì. Che c'ha male gli rubisegna, è un'amica mia che abita lì. E anche il bastone lo conoscono già, però molta gente lì sa quello che no, si sarà andata a due anni, ma si è fatta pappa, sì. Lo si lamenta, tu prendi. Cioè, uno che l'ha puntito si rammenta, ma un altro che non si sa lo butti, la gatta sempre lì, compreso. Lo so, grazie, lo so. Va, adesso glielo dico di profano. Per me non è buono, manca a friggiti. Non serve, mi fai una prova. Poi cagli tu, poi un po' che una cazzatura minorita. Accendi il gas e lo scaldi e se si lo dormono con il già. Se ce l'ho buttato io nel bagno, la città passa a provare a vedere che ci sono buoni un poco in questa casa rura minore, a segno casa, a vedere che abbia qua. Come l'ha messo? Ti sto dicendo, faceva schifo, ma schifo. E ci sentiva 30 km l'ubiaco e l'ha caduto un poco. Ho preso e ce l'ho buttato nel bagno e intanto che ci sono la casa. Chi sa vai, chi sa zona adesso, secondo quanto mi ha fottito. Lo vede fra 3 anni. Ehi, tu la salvo fa, che ha già più io. Comunque chi c'è Sennarese, di Sennari. Ehi, lascialo fare. Un altro padore, per carità. Vabbè, un garubo fa. Quindi sono bene di truffatori, di cucci, a chi la voce, al chissà, mi metto con la cazzoppa, a trappino la cacciata cazzoppa, del giro, fammi la vita mia, vai, beh, dammi. Allora tu sei dammi già. Ma dato la cassetta del giro, non ve l'avevo data ancora, ho preso la cassetta lì stessa e la giro da sotto sopra, di caricata in terra. Cazzo, e chissà cos'è, cazzo fa di desiderio, chissà, non sai cosa fa, ti la volte te la mani giù, minuta è tutta crucifida, chissà da quando veda, copri, chissà sopra sopra è la vetta, lì giù primi bici, là sei la mondezza. Lo so, vabbè, ci ha provato la fregata, capito. Infatti la gente, barista, ma Massimo che ti vuoi sudare, è quello, se no stai vita. E non ne le ho prese. Lo zubo non lo fa zubabu, fa zubo, lo zubo, brimmo, brimmo, io sì che uso davvero buono, ma buono davvero. E perché io non l'ho fatto? Solo quest'anno non ne abbiamo fatto bene, ma erano poche le ulite. E mi sembra me ne è rimasto un po' di quello lì. Adesso me lo sto comprando. Però, no, che c'è da Trinity, di Trino, che sono se famiglia. Quello che costa 5 euro, almeno quello è uno, extra vergine. Sì, sì, quello che ha fatto il padre di Marina, era molto molto buono, una puntina e proprio ti insaporiva l'insalata, ma buono veramente. E poi te l'avevo dato anche a te, io, non te lo ricordo, l'ho dato anche a Luca, a Sagliani, e a Gian Maria. Sì, sì, mi ricordo, sì, sì. Quello mi sa Marina l'avevo usato per... forse per cucinare o per condire, non mi ricordo, grazie. Quello va bene per condire pure per cucinare, ma non fa friggi. Un pochettino nel minestrone ne mettevo io, che ne sapulisce, no? Anche a fare il sugo ne mettevo un po', capito? Oh, però chi c'era puro puro proprio lui, non venuta, è proprio figlia della riva immaginata, boh! Infatti, vabbè, ormai era fuggita. Era dramogina, da mura, le ho svuotate io la dramogina, le olive, prima a chi non va via l'operaio era impegnato nel supermercato. Col muletto prima le ho prese, le ho messe dove le smista dalle foglie, poi dalle foglie, una volta smistate le ho con l'altro contenitore, ho preso le olive, le ho buttate sull'altra moglie, ho guardato e mangio un punto di milione in sotto. E ho aspettato sino a quando me le ho macinate tutte. E chi sei proprio arriva, gli sei tagliato da due, ho finito di bucarimi. C'era poco buono, c'era è buono, ma è rimasto un po' una bottiglia qui. Sì, sì, beh certo. L'olio vuole buono, capito? Se no non è olio. E vabbè, ma se l'ha presa così, era già stanca, capito? Magari... ma cioè, stava vaccinando, c'è un pensiero, va. E l'ha fustita. È una pizzicata che apparenta chi ce l'ha fuggita venendo da Sant'Orsola. Sotto casa, praticamente si è dimenticato dei fogli in macchina, no? Cosa ha fatto? È tornata indietro e arrivi tu e dici signora, me lo sto prendendo un affare, 5 litri di olio d'oliva, buono mi, un affare. E Marina lì non ci ha pensato due volte, gli ha detto va bene. Se è buono te lo prendo. E mi ha ricordato, pensa a lo bucari. E beh, mi già lo credo. Allora, a 5 litri, a 5 litri gliel'ha fatto pagare. Bucaria. Ma basta che tu, sicco. Non lo so, io non l'ho visto. Paoletta Barosi non vede che se ne ammetta. E com'è che se ne ammetta? A chi è da non rubare che l'ha fuggito? Si rincoccia d'ora per l'altra baoletta, non tanto. E io dico alle volte, cazzo, lo vado a fare tutta la questura di sassa. Intanto non è mica quando si incassa. Fatti bene, l'ho già compreso. Fa bene, perché c'è fregare la gente così, poi, sa cosa vengono che si mette lì sotto. E non solo, tazza pure rimane, che si rompe, ti scusi. Mi andrebbe da uscire a Paoletta e a Farradura. E anche Marina, andrebbe da cucino. E te l'attacchi, sì. E Pasinive, cazzo l'ho anche compreso. No, vai buttacelo, dì la buttacela a Marina, nel cesso ce lo butti. Tanto è porcheria, amico, hai compreso? Si è cazzo di bevotti amari, l'ha passivo. E quando lo vuoi, andate in macchina, da pura guardi dentro, dove macinano le olive, se ce la saranno aperta, già c'è nulla. E lì glielo chiede, se lo danno, sono pazzetti. pure già le portatore se lo vendono, se lo vuoi sia di Gemini o da Riva, come lo vuoi tu? Cosa? Lo so, grazie, ma è l'attimo che l'ha fregata, capito? È l'attimo, io proprio non se ne è resa conto. Ma lei te l'ha tutti da così, ma te si impressa tutto veloce, tutto impressato, Ila. E l'ha tutti da così. Grazie, sa cosa ha fatto a Marina? Sì, infatti l'ha trovata male un attimino, sovrappensiero, sì, da voi. Infatti non è giocato di vito, si è rimasta un po' più... è rimasto un po' così, cioè lui mi hanno fregato, basta la prossima volta stare attento a non prendere niente, semplice. E poi è furbo, mia, chi ma va, lo vuole, ti va a proprio tu in cicchi, e fammi il video, fammi assaggiare, ti non vado assaggiare, però ti vado assaggiare chi ci vuole, compri, ma da poi ti dati la mondezza. A me non mi aveva fottito, non ti preoccupare. Lo chiarello è un matutipo che andò andati a pigliare un vino, parla, buttava lo circo, lo attaccava lo circo. Bah, caridai. Infatti, sono andato io con la buona madre del signor Tullio, e il signor Tullio che mai l'ammazza. A me ci ha trovato le dita, e mi sono trovato lo vino. Lo so, grazie, purtroppo è un casino. Ce ne sono fregature, ce ne sono che fregano un sacco di gente. Ma stavi parlando adesso, di continuo, però non ti sentivo più. No, sono andato a scarrasciare, me la vengo un po'. Così leggialo. E allora, va. Allora io, quando lavoravo a Serramanna, nei campi, con il camion, e portavo i pomodori a Zediana, alla fabbrica, lì vicino a Orissà. Ci stavo anche 3 mesi lì, nei campi, no? Io passavo col camion e mi caricavano le casse sul camion, i pomodori, e io me la sentavo. E poi li portavo alla fabbrica una volta che c'avevo il carro. E quando ho finito, mi aveva detto il padrone, se mi interessava la pochettina fumati, però già scadute, però scadute da un mese, erano buoni, me non erano rimasti. E abbiamo fatto a blocco. A oggi la gioventù di tutti, di chi si batte, non è pochettina di voi. E io pure pelati, me li ho tenuti a andare a consumarli. Quasi un anno, ed erano sempre i voli, e la ditta erano i pelati Antonella, che ci sono ancora, quei pelati lì. Allora, grazie, Maria mi stava dicendo che quell'olio l'ho aperto lì, era chiuso, vuol dire che olio buono, per friggere va bene, non era aperto. Non lo so, provalo, assaggialo, dillo a provarlo, è bellissimo, ma l'attrezzatura va tutto lì. Non hai compreso, sicuramente. A che parte la fitti da uscire a te. Il bidone era uguale a quello il bidone. Però non si via chi succede. Prova a scaldarlo, dice. Senti che odore fa. Sì, adesso proverà, sotto rampa. Ah, io ce l'ho buttato. Abbiamo piatto tutti lui. Ah, no. Anche sapore, Maria Uri, poi Maria. Mi sapete questa cosa, mamma di Luca, aspetta. Ehi. Mi grazia, non è che c'è una sacca vecchia che serve a Luca che si deve mettere l'acqua a scooter, che non usi, ovvio, Una sacca? Una sacca vecchia, Io so che non è, dovrei, chi ci va via io se la via tutti i gittati, dovrei chiedere a mia figlia se c'era qualche dura, tutti quelle quando gioca a pallone, io qua vedo che ne ha due mia figlia di borse di giuga, però li trattano, non so se c'era qualche un'altra, se può chiedere. Ho capito. E quando viene glielo chiedo, se è uscita, e io... Prova un po' se nel caso nel caso ce la servi a Luca per mettersi da qua a scooter. Ehi, prova, quando viene stasera, non so che ora vi, glielo chiedo, se c'è già glielo faccio sapere. Rimani di ringrazia. Ah, ieri davvero ringrazia. Ehi, ieri davvero, è davvero ieri, a casa. Ieri cos'era? Domenica. Ma non sei entrato però in radio. No, non mi ricordo cosa stavo facendo. Ieri mattina, in casa ero, ieri sera. No, stavo facendo cosa e non mi sono pensato. Ieri ero qua, ieri era domenica. Ma in radio non sei entrato, che c'era Gio Maria. No, mi sembra di no. Ma allora non me la metto, ma mi pare che non ha acceso ieri il radio. O forse l'ho accesa un po' e infatti mi sembra che avevo sentito Gio Maria. Allora so così, rimano sabato, boh. Ieri tu eri al mare, di così, Luca. Mi sono bruciato le cosce. E allora no, ieri era a casa, mi sembra che ho visto il telefonino che era al mare. Ehi, al mare, alla marina ero. Ehi, ti avevo mandato un messaggio. Oh, nel telefonino. A non bruciarti, la marina è a te. Non l'hai guardato? Sì. Attento, Mario. Pepe, e cosa stai facendo? Oggi ho pranzato, Lu. Che cosa hai pranzato? Zucchine ripiene in forno e peperone ripiene in forno, bonareggi e polpette, niente primo, polpette e insalata. Grazie, pure io ho mangiato i lenticchie al ripieno. Ieri ho mangiato bene lo stesso, oggi il mattino. Ho mangiato una bella focaccia insieme con la roba lì nel piatto. Buon avvio, e ieri mi ho mangiato le polpette con il ketchup. Sporareggio. Un mega super focaccia. E tu ti stavi abbrossolendo al mare, e io qua, bella, al fresco, pasticcini, bibita fresca. Cosa vuoi, stava, grazie, ne mongo un po' di ciocamoglio, ce ne ho un po' da fare. Sono in siguascia, domani mi lavorso aglio per tuo simbolo. Ce l'ha qui, Paoletta, ciò che è cucù, ci mi la dici, ma stasera le lumache ti fa mezzo, quando ti piace magnatina, e io la dici, senti, o c'è il simbiosi, lo simbiosi ti la tiene un bello. No, chi c'ha, che ci fa tu e la giubata da, attaccata alla, agli olive, all'albero degli olive. Ehi, chi sei più buona che sigillata già? Ehi, quella è buona magna. Se te l'ho detto, negli alberi delle olive, nei fori, nei buchi. Se vado in un iso, una volta sta registrando una vecchietta a legno, a chi parla una macchinetta di dinà a fare ogni gioco, e cucciolavo con chi sa. Pezzo di legna, no, una vicinghitta, sempre da riva, allora la gioca che gli varava, da un buco nell'albero. Davvero? Ah, che la prendo, che la metto a bagno, dai, la giuca di mangiarmi un po' di gioca grossa, di per tutti i simboli. Ehi, vai, vai, tranquillo, mi danno un po' a vero. E boh. E beh, c'ho chitto. Stannau. Il cinema ti stai guardando? No, a te sto guardando. E a Luca Frippero sentito la lo hai. Alle guai, E infine si era data alle guai. Ieri era alle Hawaii con la sua super veloce acqua scooter con il silenziatore. Ieri si è sputato le chiappe, capito? Perché aveva troppo caldo, allora era tutto il giorno a bolle, oggi è tutto sciolto. Mi ha detto che era tutto nudo e stava passeggiando vicino alla scogliera, che c'erano le sirene distese abbronzandosi. Le posizioni, qualsiasi posizione, dice chi va via. E io, ma sarà. E tu era se papà e denti, no? E allora, con l'acqua scuta, andenni, durrenni, entrava nelle insenature, che lì c'era proprio il miele, il qua qua, vera, proprio i vivi. Ha fatto bene, ha fatto bene. Almeno ha visto qualche cosa di diverso. Si sarà strazzullato troppo, poi. Mi ha detto. Vabbè, c'è chi può, Gio Mari. Lui se lo può permettere, giovane. Così che... deve guardare e fare. E allora, da quando si è aperto l'azienda di cubicatura e penne di dina a montagni, già lo credo il buon permetti. Lo so tutti, no. Lo so tutti se lo possono permettere. Piatto che lo può fare. Io non lo posso fare, forse lo farai tu lo puoi fare, sì? Ma noi mi piazza sta attaccata che c'è qua scusa, l'ha già provata un paio d'anni fa, già è bello, là, però mi stracca subito. Perché bisogna fare allenamento, Lui fa molto allenamento, sicché tu non le fai, allora questione seria. No, io già mi faccio portare adesso, allora guidano gli altri, io disteso lì, guardo, faccio, capito. Non è che mi impegno a andare su là, capito mia. certo, almeno guardi tu pure, dai, almeno guardi, si guarda almeno con l'occhio. Si guarda, si prende, si molla, insomma, si fa. Davvero? E allora, a guardare si guarda con la telecamera e con il binocolo, c'ho di mani. Abbiamo anche lo puoi fare, ragazzi. Io non lo posso fare, purtroppo. Ehi. Mino ti va a fuggire Maria, ne fuggire a Luca con l'osso da riva, invece mi ha cruviato con l'osso da riva. E andando in giro qui c'ha 20 osso, mi. E dove ve l'ha preso? No, che tu ti può andare in giro, ti ferma e ti domanda se lo vuoi ti si rimbacca, da voi gli pari. E già ci sei tu qua, cazzo, a consigliarlo dove andare, no? E invece non hai detto niente, pensi solo a te solo e basta. Io già gliel'ho consigliato, se lo vuole andare lì da Mura, ne ridate canto un ibu, di chi c'hanno pure di l'anno passato, quello dell'anno scorso glielo prende di meno, ed è buono, buonissimo lo stesso. Dunque, non conviene pigliarne da chi si andano in giro a chi ha ributti da paletta burro un 3 anni fa, penso 3 anni, penso. E a quanto quello buono? Che l'hanno fregato, 5 litri di natato, 25 euro, a 5 euro. 5 euro il litro, un po' carino è, però se è buono. Io sto dicendo quello che hanno venduto alla vicina di Luca, di Marina, a Marina hanno fregato, non a Luca, l'ha preso Marina, la fustiglia, la fustiglia, invece non è olio d'oliva, però il tuo è la paletta viene in tassi e se lo dà. Ah, però l'anno scorso non lo so quanto l'ho preso, no? E adesso ho preso un anno. Ora, pulito, come ne sta stando? Sì, basta provarlo a mettere su fuoco un po'. Dall'odore si sente dall'odore se è buono oppure no. Gliel'ho detto io, provalo a chi è un ghiacciugatino da paletta. Ho provato, fa via schifo, un fiago e ce l'ho buttato nel bagno. Su, ma come fai? Eia. Va bene, grazie, sentiamo dopo, vai. Ok. Ehi, già sono binocchi. Va bene, sta sulla qualcosa. Ok, a dopo. Io mi sto pulendo le lumache, grazie. Fai le lumache. Già sono qua. Tanto sto facendo cosa. Poi chiama. E Lu? Pronta è la gioca, miuda, bello bene. Sì, grazie, ho messo a bagno, cioè a bagno, stanno cucinando adesso, lo macconi con lo macche grosso. A bollire le seme, le hai messe. No, non ho capito. Cosa legge, budendi? Certo, lo sto cucinando, lo macconi e lo macche grosse. Dai, adesso vado a dare una sciacquata, ci sentiamo dopo. Ehi, va bene, ok. Hallo Familie, ich war jetzt verbunden, oder? Ich habe jetzt was Nudeln was aufgesetzt, weil das immer so lange geht und die Nudeln kochen ja auch 12 Minuten oder was. Das heißt nichts, das heißt in 20 Minuten oder 30 Minuten gepresselt. Ja, aber in einer halben Stunde ist gleich verlacht. Und übrigens, da sind wir der Teufel und das ist halt egal, ich treffe doch fest. Jetzt wird, keine Ahnung, ist das nicht gemäß, sieht aus und sowieso also kann jeder kommen und kann die was holen. Das gab es ab. Der Probierer wäre es auf jeden Fall. Wie du willst, die Tüte sind auf jeden Fall schon mal alle besetzt, aber im Steg ist ja auch genug. Weiß ich auch nicht. Ich beobachte das jetzt mal. So wie es aussieht, gibt es da so Zipfelschnitten und Sex. Was sagst du? So wie es aussieht, von da oben gibt es Zipfelschnitten und Sex. Ja, nein, das geht noch ein bisschen länger hier. Ja, da ist so ein bisschen groß, das hat er gerade zwei Sitze gebracht, die waren gerade aus der Hände gerissen, die kommen gerade nach. Bei uns gibt es Nudeln, sind wir jetzt aber da unten in der neuen Wirtschaft, Pizza-Schnitten, also Pizza-Teile, kleine Stücke von Pizza und ein Deck. Ja, da musst du auch mal uns mal die Hand sehen, gucken und so. Ich sehe es, das Boden für die Flügelung, die sind hier auf dem Weg. Ich sehe die, ich kann dich beobachten. Wer ist das hier oben auf dem Balkon? Bist du blind? Warte, mach mal dein Mikrofon ein bisschen weiter weg vom Mund. Ja, also doch blind. Bringst mir jetzt die Kuchen mit. Ja, von da unten Kuchen gibt's gerade. Jetzt kommst du doch für die Pizzen. Ja, jetzt vorbei, da holst du was. Kannst du die? Na, endlich. Ja, ja. Du musst das sein, du bist die Kuchen mit gleich weg. Bravo. Da kann jeder hin und kann sich bedienen. Wie gesagt, da kann jeder vorbei und kann sich was holen. So machen wir es. Unter dem roten Schirm links gibt es noch Kuchen. Unter dem großen Schirm links gibt es noch Kuchen. Ebbe, grazie.